accendeva il telefono, c'era l'acqua dentro, e l'ho trasciugato bene, pulito bene, solo siccome ha preso un botto e ha rovinato i cristalli liquidi. Ma io ti spiego, il mio non è entrato tutto dentro l'acqua, è andato dritto, quindi solo la parte di bassa, di giù, dove ci sono gli attacchi, proprio lì. Ho messo subito, l'ho asciugato e poi gli ho messo subito il coso, lo spray per contatti, e ho visto che se adesso non mi ha dato nessun problema, ce l'avrò già un mesetto così. E chi ha parlato prima? Non so, chi è? Invece la Tarino Bolara ce l'ha recuperato al porto di Trefaradio Giosso. Aveva catturato la tasca, mi ce l'avevo nella tasca. Ma che vedi voi, cioè avere il telefono così, appoggiato da qualche parte non vi cade in acqua. O chi si ruba la camicia. Cazzo, ma proprio intelligenza. La tasca del giubbotto della tuta. Praticamente è uscito fuori. Come io mi stavo abbassando i pantaloni per fare la pipì, mi è caduto dentro. Ma ho fatto chiravrei a Gavarni. Sai perché? Perché la giubbotto telefonere buoni voi, ecco cos'è. Cos'è? Non ho capito bene. Che voi non ci avete telefonini buoni, ecco cos'è, e si bagnano. E infatti il mio non si è bagnato, il mio non è tratta di acqua perché sono impermeabilizzati quelli che stanno facendo adesso, e sicuramente anche quello che mi ha salvato. Beh, ho 8 anni io, 2 volte mi si è fatto in mezzo a leva, non è successo mai nulla, mai è entrata. E che telefono c'hai tu? Io c'ho un barattolo da 1200 euro. E fa le stesse cose che fa il mio. E l'ho pagato 289 euro. Sì, ma viraggio quasi 9 anni mi viraggio. L'iPhone 7 c'ho. Che anni? Ok, ok. Hai sentito? Sì. No, non ti sto ascoltando perché sto rispondendo a un messaggio. Scusa un attimo, ti riprendo. E carino. Andiamo bene, andiamo. Che meraviglia. Luca. Ciao, sole, beh. Ciao. Certo, non va bene. Boh, Gianni si è assentato. Boh, spariti sono, la Tarina e Gianni, boh, Torino. Deve essere un messaggio che entra tu, se è pari di tutti. No, non c'è Tarina, cosa va? Tarino non lo so. Tarino. C'è pariti, insomma. Boh, ti ha detto, se che entra te o sono spariti tutti? E sono coccomani. Ma un bel coccomani. Non zitto, torre squalo, che se vengo lì cata, ti taglio i baffi a schiaffi, mi hai capito bello bene? E te, la mamma mi butta gli appunti. Vai direttamente, fammi la barba, direttamente, boh. E vabbè, ti faccio anche la barba, là, per un amico o quelle altre. No, l'altro lascialo stare, non puoi fare altro. Catta. Ma che immagini, Arici Luca, sempre con me ce l'ha, quel cuocuomane. Sì, colai. Sempre con te ce l'ha. Sì, sempre con me ce l'ha, piglia, allora. E cosa vuoi fare, e cosa vuoi che ti dia? E il giorno che lo trovo lo faccio musicare dal mio cane, agli stinchimi. Luca, fai due. Adesso non parlami, ma gli faccio, vedrai che il giorno che lo trovo lo faccio musicare dal mio cane, così impara. Andiamo bene, andiamo. Andiamo bene. Vabbè. Così è. Infatti, non parli adesso, bello bene, ah? Ah, si deve essere allontanato. Infatti. Deve essere allontanato, Luca. Infatti, se no già avrebbe risposto quel cuocuomane. Io, se mangio di la pizza. Sono di lui. C'è un attimo, Tore, che mi sta chiamando la 50. Io. E beh, Torino. Ehi, catta, finito hai di messaggiare? Ehi, sì, no, ma ero in bagno adesso, l'ho finito da poco fa, ma poi sono andato in bagno. Ah, così è, andiamo. Hai capito delle... cosa c'ho io? No, non ho sentito che telefono c'hai. Ma un po' sette ciò, e ciò quasi 9 anni. Vabbè, ma l'hai pagato, bello. Io in 9 anni ne ho cambiato 3. E vabbè, tu ti accontenti di quello da 250 euro? Io mi sono accontentato di visto che viaggio 9 anni e non avevo avuto mai problemi di nulla. Guarda, questo mio fa le fotografie bene, fa tutto bene. L'unica cosa che c'ha è che ogni tanto mi cade la linea, ma non dipende dal telefono, dipende da qualche cosa che c'è qua, nei dintorni, perché ho cambiato 4-5 telefoni e fa sempre la stessa cosa. A tutti cade la linea perché non ce la fa il segnale a entrare in casa e c'è il segnale basso, siccome questi 4G li stanno abbandonando i ripetitori, e allora succede quello, anche qua fa così, ogni tanto cade la linea. Ma non lo fa, è già il 4G, eppure secondo me è quello lì che me lo sta facendo. Secondo me sono vicino a casa con i ripetitori e 5G mi sta facendo questo lavoro qua. Ho cambiato anche le ditte, cose, ho messo Telecom, ho messo Windows, ho messo Vodafone, niente, con tutti quanti fa la stessa cosa. Perché questi punti 5G disturbano pure tra l'altro. E prima in realtà io le linee le prendevo, stavo un ore al telefono e niente, quando era fuori era a saltare, ci telefonavamo la notte, stavo tutta la notte a parlare. Ma vai, è un casotto, ma per via che cade la linea, a me pure lo fa. E anche perché li stanno abbandonando i ponti dei telefoni nostri, per costringerci a comprare il 5G, che a Besumio funziona a Burumare, tra l'altro. Se funziona a Burumare, perché la genere, ma tanto che lo devo spegnere per riaccenderlo, e funziona male. Faccio il 4G a me e non mi si è mai fatto nulla, si ne va. Vuoi dire in chi vi figlia vero un monte? In occhi caggi la linea, da un sacco di gente e cade la linea. Dentro casa il più delle volte cade la linea dal cellulare. Grazie per la collaborazione. Perché sta facendo così? Prima arrivava questo bel segnale della Omnitel, va a Nisba. Comunque va, fino a ricaggi ti devo battere e telefono al piscio. Cosa? A Paolo ha detto, altri che ricaggi un telefono ti devo rubare. Ma con l'acqua pulita però mi... No, 2 volte nel vate e 1 volta nel lavandino. Eppure non è successo mai nulla. E invece a me mi si è cacciuto il buccio, 30 metri d'eva, e non la giubbio a uno. Ti sa vedo, chi ce l'ha fatto pure a me, però che date i telefonini però, un Nokia. Eppure a me un Nokia 3330, appena comparato. Mi davi un rudaschino di giubbotto la becca, gatto, mi sono cincinato, brum, lo telefono in leva. Mi chiama Gianni, te lo può dire. A me, trovamente, mi sono cincinato, era una botta anche la leva, va. Ci dobbiamo entrare tutto il braccio per recuperarlo, se no c'è entrato, ma che non funzionava più. Siete sovraccavallati, Tore, c'hai il dito veloce tu, peggio di Gianni. Questo è, te l'ho detto io, catta, il dito mio è veloce. Riprendi Gianni. Ti devono chiamare Jack lo svelto. E tanto me, catta. Se vedi così non anda. E comunque io sono del parere che se un telefono fa bene le fotografie, fa bene tutto, cosa ti dà futi di spendere 1500 euro per un telefono? Non me ne frega nulla di buttare i soldi così a me. A me mi ha fatto tutto bene, te l'ho detto, tranne quando sono dentro casa che mi fa quel difetto. Se sono fuori o in macchina riceve benissimo. Sì, anche il mio. È dentro qua che prende male. C'ho 2 tacche solo. E poi è disturbato anche dai punti 5G e quindi molte volte cade la linea per quello. Io comprarmi quelle antenne adesive che si attaccano dietro il telefono che vendono su internet, però sono troppe, cosa hai 30 euro, mai sono 4 o 5, cosa me ne posso? E va bene, se ne prendevamo magari 5 insieme e poi dividevamo la spesa, ognuno si prendeva la sua e via, e magari con quelle lì riesci a recuperare il segnale. Boh, non lo so, a meno che non metti un ripetitore fuori, in modo che il segnale entri dentro e lo prenda più forte. Non lo so se quelle antenne funzionano. Ma il segnale c'è, io guardate, il segnale al massimo, non è segnale, è qualcosa che disturba proprio. Allora sono quei punti 5G, io è perché c'ho poco segnale qua, però cade la linea per quello. Se tu c'hai il segnale al massimo vuol dire che quei punti stanno disturbando quello del telefonino tuo, se no non è possibile il massimo di segnali che ha già la linea. Oh, è mio già, il ripetitore che ho io di fronte sopra il grattacielo, sei in atto un bel, forse poi ci chi pigliava. Sì, infatti, in occhio io faccio poco segnali, Salvatò. No, io il segnale ce l'ho abbastanza forte, prende benissimo, prende. Poi c'ho le pareti spesse, io, lo sai che queste frequenze qui il cemento è a cantoni, tu cavolo di ragazza, e entra poco segnale, la verità. Oh, io dal coso, dal router che c'ho, me lo segna benissimo, e anche il segnale che mi arriva è forte, se non mi basta quello che c'ho mi fa da 3 a 4 giga mi fa. E vedi, a me mi arrivi poco segnali, no? Infatti ero vicino alla chiesa, eh? C'erano degli amici che non riuscivano a farvi darsi uno con l'altro. Vabbè, tranquillo, va bene, cosa, un telefono. Ma te non te ne cade la linea, no, a che va giù un telefono? Non va giù due telefoni del Gozu, ha giudito. Non va giù due telefoni da 200 euro. Ma no, il mio è buono il telefono. Infatti quando esci dai noghi, cazzo, si rivendo ogni aroppo. Se entro dentro casa era un problema, beh. Che abbiano risolto, perché oggi mi ha telefonato una persona e non è caduta per niente la linea. Anche con me lo fa a volte, mi illudo e quindi la prossima volta ti cade di nuovo. Anche a me l'ha fatto, sono stato con una persona più di un'ora e mezza e non mi è caduta. Poi mi ha telefonato e mia sorella ha portato il torre, si è caduta 3 o 4 volte, non una usa giù. Ma io parlo con mia figlia, la videochiamata, eh? A lei molte volte si interrompe, a me non mi si interrompe per niente, io la vedo e sto tranquillo. Fate un attimo di bianco che ho sentito la voce, avanti chi stava parlando, pari a brighetti. Vabbè, comunque, riprendete, tranquilli. Ho sentito una voce sottofondo che stava dicendo qualcosa, ma non ho capito chi è. Sì, forse era Carlo che sta tornando dal trabacco. Capito. Anche io l'ho sentito, mi sembra che era lui. Ma anche poco fa si è sentita quella voce sotto sotto. Ci vuoi entrare già 6 minuti. Carlo, ci sei? Oh no, non so cosa dirti. Perché stasera doveva rientrare? Ehi, non lo so già. Mi è sembrato lui, come... però basso basso mi arriva. Anche a me arriva basso, però ho sentito una voce molto flibile. E anche io basso basso l'ho sentito, mi è sembrato lui. E vabbè, adesso magari se si avvicina poi già chiama. Tony, allora questo telefono non lo cambi mai tu. No, pensavamo rotta in cucci come te. Vabbè, se ti va bene, tanto la spesa l'hai fatta per 3 o 4 telefoni. senza che andare, lascia andare. Mi figlio mi ha detto che mi regala, che mi dà quello che c'ha lì, il 12 mi sembra che sia. Mi dà quello e continua a trattarli tutti e due. Mica io il telefono lo uso, perché su internet ci sto a gogo. Sì, anche se non ho visto Guiuro, sto cuore dei maravini. Tanto, che capito, molto il telefono. Sì, se no, no io. Quando ho messo un potere culare una base, ma come ti trovo anche una base, comincia a squillare. Comincia a chiamarmi tutti i canti. Oggi mi ha squillato due volte, per due volte sono andato a rispondere e mi chiudevano la linea. Il risultato a Sassari, boh. Ho richiamato e niente, non rispondeva nessuno. No, a me, come l'ho messo da una parte, cominciato a squillare, mi stavano chiamando per la visita. Ho detto, ma non è adesso che la devo fare. A quella gita è quando è ottobre. Allora ci siamo sbagliati. Allora la visita che avevo già fatto. Pensa un po'. Ha detto, ma quella visita lì io l'ho già fatta. Un'altra volta la devo rifare. No, ci siamo sbagliati noi, ci scusi tanto. Vabbè. E poi era Lene che mi ha chiamato e gli ha detto appena è possibile ci salgo. Mi hanno dato l'appuntamento a lunedì. Perché? Per cambiare operatore? No, devo cambiare il contratto, perché sta scadendo, è scaduto, scade a metà maggio, hai capito? E quindi lo devo fare, entro lunedì lo devo fare. Ho dato l'appuntamento a lunedì. Ma il tuo scade entro maggio? Sì, entro maggio mi scade il mio. Ah, il mio io ce l'ho un mediano, non mi è mai scaduto il contratto. E a me quel contratto lì era per 3 anni, però la tariffa, che ti della tariffa, io penso che ti scada anche a te, ho sempre la stessa tariffa, tiro. Sì, sì, io ho sempre la stessa. A me me l'hanno fatto per 3 anni, adesso a metà maggio mi scade e mi rifanno quella nuova, mi rifanno per altri 3 anni, hai capito? Ogni 3 anni ti scade. Ma io no, è poco l'energia, che è più conveniente, ma non è. Io ho un'energia, quella lì, ed è conveniente. Sto andando con questa che sto pagando poco, ma là se arrivi a 300, 400, 600, a me 125, 126. Così già va bene, là. Così già va bene. Allora, vediamo un pochettino, là. Vediamo un po' se conviene, faccio questo. E io c'ho conveniente con 24 ore ce l'ho, mattina, sera, le cose sempre con la tariffa. Quant'è? 0,12? Eia, 0,12. Adesso invece mi fanno, il manoletto dice che mi fanno quella che costa più poco. No, vabbè. Avanti la tariffa. Io mi lascio che mi guardo un po' di più, che sono stanco, là. Non sono come voi, sono ricchi. Ehi, vabbè, là. Ciao, Natalie, buona continuazione di serata. E ciao anche a Tore, là. Mi sono alluviato io, vado a portare giù il cane, che mi sta aspettando. Come te l'ha inteso, che sono così saluto e di alza due la lecce su. Io tanti qui non comprendi. Certo, vitturale. Vabbè dai, ci risentiamo. Ciao Gianni, ciao Nattarino, statemi bene. E tante cose calde calde. Ok, ciao alla prossima. Ciao Salvatore, grazie per le quattro chiacchiere. Anche a Gianni, alle prossime. Ciao.